R, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. È morto il generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri, era nato a Torino nel 1953, ex capo di Stato Maggiore della Difesa e presidente del Comitato Militare dell'Unione Europea, era capo del colosso delle costruzioni navali di Monfalcone dal 2022. È stato trovato senza vita nella sua abitazione. In un incidente mortale a Carlino ha perso la vita il comandante della Guardia di Finanza di San Giorgio di Nogaro, Pierpaolo Marino. È uscito di strada con la moto finendo in un campo, in condizioni gravi all'ospedale di Udine, il passeggero che viaggiava con lui. Il ruolo dei nuovi distretti del commercio introdotti dalla legge di sviluppo impresa, gli ambiti di aggregazione delle imprese, associazioni di categoria sul territorio, il rilancio del commercio locale nei paesi e nei centri storici. Sono alcuni tra i temi discussi nel summit del commercio al Castello di negli stati generali del settore. Quella di Lignano Sabbiadoro è la prima comunità energetica rinnovabile balneare d'Italia, un modello esportabile e incentivante per altri territori. La presentazione poco fa in un convegno organizzato da Comune, Lega Coop e ANCI. Lo stile è anche il messaggio, prendersi cura delle persone e della comunità a partire dalle immagini e dalle parole. E questo è lo slogan di presentazione della nuova immagine della Caritas diocesana di Trieste, illustrata poco fa nella sede della Curia Vescovile. Un'ambulanza e una serie di defibrillatori e monitor destinati a supportare la popolazione ucraina sul fronte di guerra. La donazione fatta da Asugi, mezzo e strumentazione partiranno da Trieste a destinazione Odessa mercoledì di questa settimana. Le 12, 31 minuti e 45 secondi in questo istante. Buongiorno da Giorgio Bearz e Daniele Lettigi in studio anche per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di lunedì 17 giugno che apriamo con una notizia di cronaca. È morto infatti il generale Claudio Graziano dal 2022, presidente di Fincantieri. Graziano era nato a Torino nel 1953. Dopo aver frequentato l'Accademia Militare di Modena, aveva poi continuato la specializzazione in ambito militare fino a diventare tra il febbraio 2015 e il novembre 2018 capo di Stato Maggiore della Difesa. Graziano è stato anche a capo del Comitato Militare UE dell'Unione Europea. Il corpo di Graziano, che di recente aveva perso la moglie, è stato trovato questa mattina senza vita nella sua abitazione. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un gesto estremo. Stava viaggiando con la sua moto lungo una via del comune di Carlino quando subito dopo una curva è uscito di strada ed è finito in un campo, morendo sul colpo. La vittima dell'incidente, avvenuto nella serata di ieri, è Pierpaolo Marino, 56 anni, comandante del nucleo mobile della Guardia di Finanza di San Giorgio di Nogaro. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime al personale medico accorso sul luogo dell'incidente. Con Marino sulla moto viaggiava una seconda persona, rimasta ferita in modo grave ed è ritrasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. I carabinieri di Tisana, intervenuti sul posto con i vigili del fuoco di Cervignano, sono al lavoro per accertare le cause e la dinamica dell'incidente. Marino nel 2018 era stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Per oltre 30 anni Marino aveva ricoperto incarichi di comando e possedeva specializzazioni nel campo dell'antiterrorismo e delle operazioni fuori area. Nel 2009 inoltre era stato accreditato al servizio di protezione del Presidente degli Stati Uniti nell'ambito della visita in Italia di Barack Obama e inquadrato nel dispositivo di scorta. Una betoniera si è rimbalzata nella tarda mattinata di oggi lungo la strada provinciale 20 nel comune di San Canzian di Sonzo, provocando uno sversamento di olio sulla strada. Sul posto i vigili del fuoco di Gorizia, che stanno operando per rimuovere il mezzo e ripristinare la regolare circolazione. L'autista del mezzo è rimasto illeso ed è stato soccorso in stato di shock. Al Castello di Udine è in corso una giornata di riflessione e confronto per identificare nuove soluzioni e strategie per contribuire alla crescita economica del Friuli. Il ruolo dei nuovi distretti del commercio introdotti dalla legge di sviluppo impresa, gli ambiti di aggregazione delle imprese e associazioni di categoria sul territorio, il rilancio del commercio locale nei paesi e nei centri storici, sono alcuni tra i temi discussi nel summit del commercio al Castello di Udine. Gli stati generali del settore voluti dal comune per identificare soluzioni comuni ai problemi, ha detto il vice sindaco Venanzi aprendo i lavori. Immaginiamo delle politiche che vadano a investire non solo sul centro storico ma riabilitano, penso, i quartieri più periferici con i negozi di prossimità che sono un presidio economico e sociale importante. Penso al distretto del commercio come anche strumento per interloquire di più con i territori, di più anche con il sistema regionale. 10 le possibili tendenze su cui discutere, individuate dalla categoria che conta circa 20.000 addetti, la transizione demografica, il ristagno economico, le abitudini di acquisto, l'e-commerce, il lavoro dei dipendenti, data analysis, le modifiche istituzionali, i cambiamenti climatici, la multietnicità, la diseguaglianza di reddito. Un dettagliato ascolto del territorio, secondo Fabio Passoni della Confcommercio. Questo incontro è per noi importante per confrontarci e capire quali sono le dinamiche future dei prossimi 10 anni per riuscire a modificare la visione emporiale della città in linea con quello che sono le tendenze del futuro. Silvano Barone, TGR Friuli Venezia Giulia. Quella di Lignano Sabbiadoro è la prima comunità energetica rinnovabile balneare d'Italia, un modello esportabile e incentivante per altri territori. È stata presentata poco fa in un convegno organizzato dal Comune, dalla Lega Coop del Friuli Venezia Giulia e dall'Associazione dei Comuni. È la prima comunità energetica rinnovabile balneare d'Italia ed è un esempio per le altre a livello nazionale per il suo modello cooperativo. La CER di Lignano Sabbiadoro si presenta oggi, è già attiva e produttiva e conta già circa 150 associati, a cominciare dal comune di Lignano, con categorie e privati. Produce e accumula energia pulita dal fotovoltaico. Per una cittadina che passa dai suoi 6.900 residenti d'inverno agli oltre 250.000 d'estate, quando diventa una città fortemente energivora, la decarbonizzazione è un passaggio obbligato per il futuro del territorio e del pianeta. Ma i vantaggi sono anche altri, ha spiegato Paolo Arrigoni, presidente di GSE, gestore dei servizi energetici, una società interamente pubblica del Ministero dell'Economia che in Italia promuove lo sviluppo sostenibile sulla transizione energetica e la sostenibilità delle imprese cooperative. I benefici sono anche sociali, perché incentivano l'associazionismo dei cittadini, ed economici. Le comunità energetiche rinnovabili innestano un vero e proprio circolo virtuoso tra produttori di energia rinnovabile e consumatori all'interno del territorio comunale. L'incentivo aumenta e viene ottimizzato al crescere del numero di partecipanti, portando a beneficiarne sia i produttori che i consumatori, anche non proprietari di impianti di energia rinnovabile. L'interesse per le CER sta attirando l'attenzione di molti comuni del Friuli Venezia Giulia, come dimostra anche il recente accordo sottoscritto da ANCI FVG e Lega Coop FVG. Lignano Sabbiadoro, Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. Lo stile e anche il messaggio, prendersi cura delle persone, della comunità, a partire dalle immagini e dalle parole. E questo è lo slogan di presentazione della nuova immagine della Caritas diocesana di Trieste, che è stata illustrata poco fa nella sede della Curia Vescovile. La prossimità è uno stile da imparare, l'altro a volte può suscitare paura, rabbia, diffidenza. Il vescovo di Trieste, Monsignore Enrico Trevisi, pone l'obiettivo al bene delle persone presentando il nuovo piano di comunicazione della Caritas diocesana. Il messaggio, lanciato attraverso il nuovo sito, il desiderio della Chiesa di costruire attraverso la Caritas prossimità con tutti, di promuovere un dialogo collaborativo con tutti per risolvere problemi complicati. Si parla di migranti, mercoledì è previsto lo sgombero dal Silos di Trieste, un trasferimento in strutture più adeguate e rispettose delle persone, ha più volte spiegato Monsignor Trevisi, ma il riferimento è anche a disoccupati o disabili. Padre Giovanni Lamanna, direttore della Caritas diocesana di Trieste, parla di una comunicazione che non vuole contrapposizioni. Con il nuovo sito, sottolinea Padre Lamanna, vogliamo parlare a tutti, anche per rendere conto di quello che la Caritas fa con le risorse che arrivano dalle donazioni. Povertà che aumenta ancora, lo dicono i segnali ricevuti quotidianamente dalla Caritas e lo confermano i numeri dello scorso anno. Oltre 13.800 persone aiutate e sostenute dietro ai 106.200 pasti distribuiti dal refettorio. L'indirizzo del nuovo sito è www.caritastrieste.it. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un'ambulanza è una serie di defibrillatori e monitor destinati a supportare la popolazione ucraina sul fronte di guerra. La donazione fatta da Asugi è stata presentata in comune a Trieste questa mattina. Mezzo e strumentazione partiranno dalla città in direzione Odessa mercoledì di questa settimana. L'ambulanza parcheggiata sotto al municipio di Trieste è pronta per partire destinazione Ucraina. Si tratta di un mezzo perfettamente funzionante, ma con oltre 300.000 chilometri alle spalle, che per la normativa italiana deve essere dismesso come mezzo di soccorso nel territorio nazionale, ma diventa uno strumento importantissimo in territorio di guerra. L'ambulanza infatti andrà ad Odessa. La donazione da parte di Asugi e la task force comunale nata fin dall'inizio dell'invasione in Ucraina, denominata Operazione Tom, Trieste abbraccia Mykolaiv, è stata presentata alla stampa nel salotto azzurro muro del palazzo del comune alla presenza delle autorità. Si tratta della seconda ambulanza donata, oltre a numerose apparecchiature mediche dismesse dall'ospedale. Siamo con Alberto Peratone, responsabile delle emergenze territoriali di Asugi. Questa ambulanza è perfettamente funzionante, perché diventa fondamentale in quel territorio? In un territorio, un contesto di guerra in cui le risorse sono limitate e anche i mezzi, un'ambulanza perfettamente funzionante va a determinare un ruolo essenziale sia per il soccorso che per il trasporto di feriti verso l'ospedale. Cos'altro avete donato? Abbiamo donato anche, tramite una dismissione aziendale, dei monitor multiparametrici che vanno a monitorizzare le funzioni vitali essenziali e dei defibrillatori. Trieste, Anna Vittoriani, TGR Friuli Venezia Giulia. E continuiamo a parlare della situazione in Ucraina, che negli ultimi 2 anni è molto cambiata. La popolazione è sempre più provata dal conflitto, così come testimonia il reporter del quotidiano britannico The Guardian, Lorenzo Tondo, che sarà ospite questa sera del Teatro Miela a Trieste. Siamo stati in Ucraina per praticamente quasi 2 anni. Nel corso dei nostri viaggi abbiamo visitato oltre 10 regioni, decine di città. Siamo partiti appunto dal confine con la Polonia e poi siamo arrivati nel cuore della guerra nel Donbass. Nel corso di questi 2 anni noi abbiamo documentato inizialmente la paura degli ucraini nei primi giorni dell'invasione, le prime settimane dell'invasione, il terrore, lo shock. E nel corso dei mesi abbiamo documentato il loro entusiasmo e la loro motivazione per dopo la controffensiva dell'esercito di Kiev, per la ripresa dei territori a Kharkiv, con la ripresa di Kherson, con la ripresa di Izium e di altri villaggi occupati. Negli ultimi mesi non possiamo fare altro che prendere atto della frustrazione di un popolo stanco probabilmente della guerra, di una guerra che sta portando all'osso le loro città, la loro economia, migliaia di giovani che non hanno mai imbracciato un fucile in vita loro, che non hanno mai sparato un proiettile in vita loro e che adesso, proprio per la mancanza di uomini al fronte, molti appunto sono stati arruolati dall'esercito ucraino e che provano appunto a scappare pagando cifre anche intorno ai 4-5 mila dollari, rischiando anche la vita. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Alle 12.42, 30 secondi, il tempo, cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e costa, variabile in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 24 gradi, mare calmo con temperatura di 24 gradi. A Gorizia 27 gradi, a Udine Pordenone 25 gradi e mezzo. A Tolmezzo 22 gradi e mezzo, a Tarvisio 21, a Forni di Sopra 18 e mezzo, a Sappara 18, a Piancavallo 16. Sul Monte Zoncolano e sul Monte Lussari 13 gradi e sulla costa a Lignano e Grado 24 gradi e mezzo con temperatura del mare di 23 gradi in entrambe le località. E queste le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia per questo pomeriggio. Su pianura e costa si prevede cielo sereno o poco nuvoloso sulla zona montana, in genere variabile con maggiore nuvolosità su Prealpi e Carnia, dove sarà possibile qualche rovescio, venti a regime di brezza, temperature massime in aumento. Domani su pianura e costa cielo sereno, sui monti cielo poco nuvoloso, venti a regime di brezza. Mercoledì e giovedì previsti sole e caldo. Un incontro aperto alla cittadinanza per ascoltare i consigli degli esperti dei carabinieri su come sventare i tentativi di truffa si svolgerà nel pomeriggio alle 18 nella sala del Consiglio Comunale di Ronchi dei Legionari. E siamo allo sport, giornata all'insegna delle celebrazioni, quella di oggi per la Pallacanestro Trieste reduce dalla promozione in Serie A1. Alle 17 nella sala del Consiglio Comunale il sindaco di piazza consegnerà alla squadra il sigillo 300esco della città di Trieste. A partire dalle 18.30 poi in piazza della Borsa giocatori, staff, tecnico e dirigenti incontrano la città e i tifosi per celebrare tutti insieme questo importante traguardo raggiunto. Si svolgerà questa sera all'Hotel Savoia di Trieste la tradizionale cerimonia di consegna delle benemerenze del Comitato Olimpico Regionale. Nella cerimonia, che inizierà alle 18, saranno attribuiti 90 riconoscimenti ad altrettanti atleti, società sportive, dirigenti e tecnici sulla base delle proposte avanzate nel 2022. Andiamo ora alla scoperta di Carsiana, un giardino botanico gratuito aperto a tutti per scoprire le particolarità della flora del territorio giuliano. Sulla strada che va da Gabrovizza a Sgonico c'è un piccolo angolo di paradiso che compendia tutta la flora del Carso. Si chiama appunto Carsiana e compie quest'anno 60 anni di vita. A gestirlo il Servizio Biodiversità della Regione Friuli Venezia Giulia assieme a una cooperativa. Sentiamo Marco Valecic del Servizio Biodiversità della Regione. 60 anni fa il territorio stava presentando dei cambiamenti, delle trasformazioni, e quindi Carsiana, rispetto ad altri giardini botanici che avevano fondamentalmente quelli del passato, una vocazione verso l'esotico, fece una scelta fondamentalmente di tipo introspettivo, potremmo dirlo, cioè il presentare la flora e la vegetazione tipica del territorio su cui si viveva, in modo da usarlo come strumento interpretativo, ma anche di conservazione del ricordo. Date le piccole dimensioni, la vocazione di un giardino come quello di Carsiana è più che conservativo, divulgativo. L'obiettivo è far comprendere al pubblico l'importanza per gli ecosistemi anche di erbe che possono apparire le più umili. Visto che la cosa che attrae di più a Carsiana sono magari gli alberi, altri alberi o comunque le addirittura appariscenti tipo la Peonia officinalis, per dirne una, il fatto di aver messo una aiuola dedicata alle erbe, quindi alle graminacee, quello che si dice di ogni erba un fascio, insomma, senza distinguere, proprio l'entrata, in modo che il visitatore le vede, si sofferma e si chiede il perché, scoprendone l'importanza e il significato e anche un'elegante bellezza che è intrinseca. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Gli spettacoli, sarà la fantasia al titolo Il Fil Rouge della 17ª edizione del Piccolo Opera Festival, che prenderà il via venerdì 21 giugno. Oltre 20 gli appuntamenti che porteranno la musica, in particolare quella da camera, tra parchi, castelli, palazzi storici, ville dei luoghi più suggestivi del territorio transfrontaliero tra Gorizia, Nova Gorizia e il Colli o Brda. Serata di punta del cartellone, presentato questa mattina a Udine, le due recite delle Villi di Giacomo Puccini, di cui ricorre il centenario della morte. Un nuovo allestimento prodotto appositamente dal festival, che andrà in scena domenica 30 giugno e martedì 2 luglio al Teatro di Verzura del Castello di Spessa. Sempre dedicata al compositore toscano, sarà anche la serata del 27 giugno nella Villa Rinascimentale di Vilpolse, Vipulzano, con l'orchestra e i solisti dell'Opera di Lubiana. Tre sono invece le novità dell'edizione di quest'anno: la sezione off, con incontri, proiezioni e esperienze pensate per un pubblico trasversale, a partire dal concerto mattutino che darà il via al Festival Castello di Spessa. La collaborazione con la chef Chiara Canzoneri, che arricchirà i concerti con proposte ispirate ai sapori del territorio, ma soprattutto la sezione Aspettando il Re, Weekend Borbone, organizzata in collaborazione con Go 2025. Tre appuntamenti, anch'essi nel nome di Rossini, dedicati a Gorizia e al suo rapporto con la famiglia dei Borbone, in particolare con Carlo X, il penultimo re di Francia, che morì a Gorizia e oggi è sepolto a Castagnevizza. A teatro anche d'estate, ritorna dopo 4 anni di sospensione la programmazione estiva del Giovanni da Udine con un'offerta variegata. Da fine giugno a fine luglio un cartellone di spettacoli che spazia dai concerti al musical, al teatro danza e alle lezioni di storia in musica, tutto nella grande sala del Teatro Giovanni da Udine, con l'obiettivo di fondo di renderlo fruibile durante tutto l'anno. La rassegna Teatro Estate 2024 si articola in 6 spettacoli a data unica. Si parte giovedì 27 giugno con il gruppo cameristico Lastre, che sta contribuendo alla diffusione del repertorio barocco italiano su strumenti d'epoca. Per il debutto al Giovanni da Udine, l'ensemble eseguirà le 4 stagioni di Vivaldi. Un viaggio nell'immaginario americano è invece Mystery Train, progetto di editori La Terza, in scena il 3 luglio. Protagonista la ferrovia come simbolo di libertà, progresso, ma anche di lotte e scontri fra diverse classi sociali. Ispirazione per folk, blues e rock. Tra racconti, poesie e canzoni, l'attrice Margherita La Terza, i musicisti Gabriele Amalfitano e Matteo Portelli e l'americanista Alessandro Portelli metteranno in scena una lezione di storia e musica, interpretando fra gli altri Hawthorne e Dickinson, Bruce Springsteen, Elvis Presley e Johnny Cash. Si torna quindi alla musica classica con pagine di Mozart e Schubert assieme all'orchestra da camera Magnifica Comunità, fra le più autorevoli nell'esecuzione del repertorio del 600 e del 700 al suo debutto a Udine. E poi il blu infinito della compagnia Evolution Dance Theater, che fonde danza, acrobazia e tecnologia. Nell'estate degli europei di calcio non poteva mancare la firma prestigiosa di Federico Buffa, che dall'Europa ci porterà in Argentina nella sua Milonga del Football, viaggio fra musica, sport ed emozioni nelle storie di Renato Cesarini, Omar Sivori e Diego Armando Maradona. A chiudere la rassegna, il 31 luglio, il musical La leggenda di Belle e la Bestia, prodotto dalla Compagnia dell'Ora con 18 artisti in scena e la colonna sonora con musiche di Enrico Galimberti. Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia. L'urbanista Francesco Finotto, che vive a San Donà di Piave, dove è impegnato nella progettazione del territorio e dello sviluppo urbano, è il vincitore del premio Hemingway Fotografia 2024 per il fotolibro Notte a Nord-Est, le fabbriche in scena. Da sempre lo strumento fotografia è servito a Finotto come elemento di indagine e studio sulla città e la periferia urbana. Notte a Nord-Est è diventato anche una mostra esposta nei mesi scorsi a Porto Gruaro e San Donà di Piave. Trieste è un'isola è il titolo dell'ultimo libro dello scrittore e giornalista Francesco De Filippo, presentato all'ufficio della Regione Friuli Venezia Giulia a Bruxelles, con l'autore che ha dialogato con Marianna Acerboni, curatrice della mostra L'arte triestina al femminile nel Novecento, visitabile all'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles fino al 31 luglio prossimo. Il volume di De Filippo è anche una spy story dettata da tutte le caratteristiche che Trieste offre. Si propone come l'evento di punta di Go 2025, Nova Gorizia Gorizia, capitale europea della cultura, di cui interpreta il tema. È la mostra, accanto con variazioni, allestita negli spazi totalmente rinnovati dell'Esedra di Levante di Villa Manin a Passariano di Codroipo. Una rassegna prestigiosa che accoglie capolavori e prestiti internazionali che vanno da Turner a Monet a Hopper. Una serie di oli su tela dedicati a Trieste, alla Bora e al Corpo della Guardia di Finanza, in cui l'autore Michele Gianfrancesco ha militato per molti anni. Sono quelli che saranno esposti nella mostra personale dell'autore, che sarà inaugurata oggi alle 16 nella Camera di Commercio Venezia Giulia di Trieste e che resterà visitabile fino al 24 giugno. Alcuni altri spettacoli di oggi. Per il ciclo dei lunedì dello Schmidl, all'appuntamento è dedicato alla presentazione di un video documentario sulla tournée condotta in Romania nel 2008 dall'orchestra giovanile europea ESIO, European Spirit of Youth Orchestra, alle 17.30 a Palazzo Gopcevic a Trieste. Si apre oggi la stagione estiva del cinema visionario di Udine. A inaugurarla il cantante friulano Doro Ghiat, accompagnato dalla sua band inizio alle 20. Per il cartellone del Festival di Teatro, Danza, Musica e Cinema a Prodi, oggi in scena Marilyn Hairworth, spettacolo diretto e interpretato da Loredana Cannata, al giardino del Museo Sartorio di Trieste alle 21.15. L'orchestra dell'Università di Udine porta in scena questa sera il concerto Il Canto degli Uccelli, in cui eseguirà musiche di Gounod, Schubert, Verdi e Tchaikovsky alle 21.15 nella chiesa di San Giovanni Bosco a Lignano Sabbiadoro. Nell'ambito del Festival del Circo di Udine Terminal, appuntamento oggi con le anteprime dei partecipanti al progetto Solo but not alone, sviluppate negli ultimi 2 anni di residenze artistiche finanziate dal Ministero della Cultura. Miss Sbarbi di Morgana Morandi e Niente Panico di Giordano Garuffi andranno in scena al Parco Moretti a partire dalle 19. E prima di chiudere, 2 notizie di pubblica utilità. Il tratto compreso tra gli svincoli di Pordenone Centro Commerciale e Pordenone Sud dell'autostrada A28 lungo la carreggiata in direzione Conegliano sarà interessato per tutta la settimana da lavori di manutenzione della pavimentazione. Per questo, per tutta la durata dei lavori, saranno chiusi l'accesso dallo svincolo di Pordenone Centro Commerciale in direzione Conegliano e l'uscita allo svincolo di Pordenone Sud per chi proviene da Porto Gruaro. Sempre a Pordenone partono oggi i lavori per il collegamento della nuova rete fognaria delle vie centrali al depuratore. La prima settimana servirà per la cantierizzazione di mezzi e materiali che occuperà l'ultima fila del parcheggio Marcolin, la più vicina alla stazione dei treni. I lavori veri e propri con la chiusura di via Riviera del Pordenone inizieranno invece il 1 luglio. E alle 12.53 minuti si chiude così questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, redatta e condotta da Daniele Lettige e Giorgio Berz che vi parla. Collaborazione tecnica di Carlo Morello e Caterina Cabrera. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle 15. Grazie dell'attenzione. Buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.